È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ora sei rimasto solo, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo viso, lentamente, lentamente. Ora sei rimasto solo. Caro Parenzo, ben ritrovato. Questa canzone è dedicata, anche se naturalmente non è rimasto solo, al signor Gianfranco Fini in apertura della Zanzara. Perché certo che l'esperienza di Futura Libertà nasce, come dire, no? Col piede sbagliato, possiamo dire così, per usare un tono piuttosto soft, che dici? Beh, sì, sembrerebbe così, dopo la debacle del 14 dicembre, quando ha perso la mozione di sfiducia al Premier, la strada per lui è sempre più distesa. Eh beh, divisioni, è uscito il senatore Menardi, che più tardi avremo i nostri microfoni, forse al Senato ci sono altre defezioni, a questo punto potrebbe sparire il gruppo al Senato, e insomma, dare il potere ai falchi anti-berlusconiani e trasformarsi nella punta di lancio dell'anti-berlusconismo, Gianfranco Fini, non è che stia molto bene a qualcuno questo, dei suoi. Tu pensi solo sia questo, c'è anche il potere finanziario del Premier, ecco, come dice Fini? Appunto, ti voglio dire questo, io trovo questa frase di Fini francamente scandalosa, scandalosa, scandalosa, e te lo dico non perché sia antifiniano, anche se no, certamente ho molte riserve su Gianfranco Fini, l'ho sempre espresse, perché come si fa a sostenere una cosa di questo tipo? Cioè, dice Fini in un articolo che domani uscirà per Il Secolo d'Italia, che le tante armi seduttive di cui gode chi governa e dispone di un potere mediatico e finanziario che è prudente non avversare direttamente. Questa è una frase un po' criptica di Fini. Comunque, la maggioranza cresce, sostiene Fini, per il potere finanziario del Premier. Cioè, sostanzialmente Berlusconi compra deputati e senatori. Bisogna sottolineare che questi deputati e senatori, che magari tornano nel PDL o tornano nella maggioranza, vanno ai responsabili, non lo so, erano stati eletti con Berlusconi la maggior parte. Non è che fossero dei fuoriusciti o della gente che è stata eletta con l'opposizione. Comunque l'accusa è gravissima, tu ti rendi conto della gravità dell'accusa? Cioè, o uno grave, fatto sta che ci sono dei casi, non so, non di denaro, ma insomma di passaggi un po' strani, quello di Razzi, Scilipotti, cioè. No, ma lasciamo perdere questo. Ho capito, ci possono essere anche i passaggi più strani possibili, ma come si fa a sostenere che la maggioranza cresce per il potere finanziario del Premier? Devi trovare le prove per dire una cosa di questo tipo. Beh, cioè Fini sostiene, è molto difficile, no, provare, ho capito, allora Fini sostiene, scusa un attimo, Fini sostiene che Berlusconi compra deputati e senatori con il denaro, offrendo altre cose, compra. Questa è l'accusa principale che viene fatta, ma lasciamo perdere. Granata minimizza Fini a cose più importanti di cui occuparsi. Noi non spingiamo nessuno e Fini ha altre cose da fare più importanti di cui occuparsi, che problemi di natura, in alcuni casi anche di labilità caratteriale. L'abilità caratteriale, cioè gli incerti, quelli che dicono il progetto non va bene perché strizziamo l'occhio ai magistrati o alla sinistra, hanno problemi di labilità, come ha detto, sì, labilità caratteriale. Ma io, vabbè, lasciamo perdere, poi ognuno si fa ha le sue idee su questo, ci sono gli ascoltatori, gli ospiti, eccetera. Di Pietro, Futura Libertà, non si sta disgregando, ma si sta addirittura ripulendo. Non si sta disgregando la compagnia Finiana, sta succedendo a loro, anzi in maniera molto veloce, quel che è successo a noi e ad altri partiti, si sta ripulendo, perché quando ci si divide, è un po' quando tu tagli, rimane il grezzo, poi nel grezzo bisogna fare la pulizia, cioè chi si sente di portare avanti una battaglia e chi sul carro c'era salito sperando di avere qualche vantaggio personale, come se ne si rende conto che invece lacrime e sangue se ne va via. Vabbè, la solita storia. I buoni, i cattivi. Chi sta con Berlusconi è un porco, eccetera, eccetera. Chi è contro Berlusconi invece è virtuoso, ha delle qualità, eccetera, eccetera. Questo è Di Pietro, ma non ci stupiamo. È ritornato il Di Pietro prima della promessa di essere più buono. Ti ricordi che fece una promessa qualche settimana fa? No, devo essere più giudizioso. Ma è tornato il Di Pietro, lo sentiremo più avanti. Ti voglio dire, prima di presentarti l'ospite di questa sera, perché c'è ancora in noi il profumo di Strasburgo. Prima di presentarti il primo ospite, ti voglio fare sentire una cosa che riguarda... prima, innanzitutto la vicenda Guzzanti, che è clamorosa. Cioè, Guzzanti si è iscritto ai responsabili. Noi qui non facciamo sconti a nessuno. Per carità, Guzzanti c'è molto simpatico, la rivoluzione liberale, quello che vuoi, la nicchia. Però, insomma, ne ha detti di tutti i colori su Berlusconi. Adesso si è iscritto ai responsabili, perché i responsabili, cioè Scilipoti, eccetera, eccetera. Perché dice che non bisogna andare a votare, e poi che questa storia della mignottocrazia, dell'indagine è una cosa assurda. Non si può far cadere Berlusconi con la piazza, eccetera, eccetera. Io ti voglio solo ricordare quello che diceva, ma qualche settimana fa, qualche mese fa, Berlusconi, Guzzanti di Berlusconi. Sentiamo, Berlusconi è un porco, imbarazza, sentiamo. Beh, io ho già detto che Berlusconi è un porco anche in un modo allegro, nel senso che uno a cui piace la carne, si può essere porcelloni in maniera allegra e disinvolta oppure in maniera imbarazzante. Lui purtroppo direi che lo è in maniera che imbarazza gli altri, purtroppo non imbarazza lui, e questa è la cosa grave. Ora, uno può anche ripensarci sul Terzo Polo, su Fini, su quello che volete. Ma iscriversi ai responsabili che hanno votato la fiducia a Berlusconi quando lui qualche giorno prima ha votato la sfiducia? Ma è una roba da pazzi! Cioè, io... Caro Guzzanti, che ci senti, ci ascolti, chiamaci, so che stasera non potevi, domani magari, ci chiami, senatore onorevole Guzzanti, ci chiami, spiegaci. E sì, poi un'altra cosa ti faccio sentire prima dell'ospite di questa sera, ospite come al solito molto gradito, anche lui ci deve dare delle spiegazioni molto interessanti sul futuro di Futura Libertà, scusate il gioco di parole, sul futuro di Fini. Sabrina Ferilli, ospite ieri sera, noi non lo sapevamo perché eravamo in quel di Strasburgo. Sabrina Ferilli ha, credo, dalla Dandini. Ti do subito un'anticipazione, poi approfondiremo più avanti. Io, a me fa orrore, cioè mio padre ha 74 anni, se andasse con una ragazzina di 20 lo interno, però è un fatto mio, di casa mia, sono sicura che la pensano così anche i miei fratelli. Poi ne ha dette anche altre, mostruosa andare a letto con qualcuno per ottenere qualcosa, sia l'attrice che fa la prostituta, anzi ha detto la puttana, no alla puttana, cioè la prostituta che fa l'attrice, il tutto dalla Dandini. Però tu sai chi è il, così per curiosità, tu sai chi è l'agente della Ferilli? No. Prova a indovinare. Non ci potrai credere. Magari dopo questa... è lo stesso di Benigni, non lo so. No, non è lo stesso di Benigni, prova a indovinare, non ci puoi credere. La gente della Ferilli. Prova a indovinare, se, perché te lo chiedo, è facile. Non riesco, io di agenti purtroppo mi intendo poco. No, anch'io mi intendo poco, però prova a indovinare, ti prego, prova a indovinare. Chi è l'agente della Ferilli? Secondo me gli ascoltatori ci arrivano prima di te. Cari ascoltatori, chi è l'agente di Sabrina Ferilli? Il tuo passato. Dai, su, se te lo dico, se te lo chiedo, ci puoi arrivare. Se ti dico che forse in queste frasi della Ferilli, non dico che c'è una contraddizione, però è abbastanza curiosa la cosa. Chi è? Forse l'Elemora. Bravo Parenzo, forse bravo. Forse. Bravo Parenzo. L'agente di Sabrina Ferilli è l'Elemora. Le tue solite domande retoriche. Chi hai là? Chi c'è? Esatto, chi abbiamo stasera? Potito Salatto, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Un po' stanco, sono rientrato ieri sera a Strasburgo. Ma secondo alcuni dispacci di agenzia, lei avrebbe addirittura scritto ieri sera una lettera a Gianfranco Fini, è vero? No, l'altro ieri notte l'ha scritta. L'amicizia che mi lega a personalmente Fini. A Fini, la stima, la condivisione dei suoi progetti, sì. Mi ha lasciato basito quando... Dopo il congresso, dopo sì. L'anticipazione di quello che sarà il congresso, diciamo la convention costituente di Milano, Futura sì. Libertà. Allora specifichiamo Milano. Che Potito Salatto è europarlamentare di Futura Libertà e coordinatore di Futura Libertà romano. No, ma lasciamo stare il romano coordinatore, io parlo come europarlamentare di FLI. E vabbè, comunque uguale. Io e anche i miei colleghi, peraltro. Perché lei non è più coordinatore romano di Futura no, Libertà. No, ma non voglio entrare nel merito del coordinamento romano. No, vabbè, ma è giusto per capire. No, perché su a Bruxelles, a Strasburgo ci siamo visti con sì. gli altri colleghi europarlamentari. Certo. Lei è rimasto basito da che cosa, mi scusi? Da questa spaccatura che si è creata all'interno del partito, che secondo me non ha alcun senso. Cioè, ma la responsabilità di chi è? Fini, che responsabilità? Dunque, allora, intanto chiariamoci subito una cosa anche alla luce delle questioni che ho sentito prima. Purtroppo viviamo un'esperienza nella quale la politica non c'è più. Sì. C'è il gossip, c'è il moralismo ipocrita, la politica non c'è più. Vabbè, per d'accordo. Cui si sta di qua, si passa di là, poi si rientra qui, poi si va là. Lei lascia Futuro Libertà? No. Assolutamente no. Assolutamente no. Il problema è molto semplice. Durante la convention di Milano sono emerse due linee che sono complementari, nel senso che non sono così antitetiche, anche perché non c'era uno scontro dialettico. Beh, insomma, tra Granata e Urso qualche differenza c'è, esatto, caro Potito Salato. Esatto, ci sono sensibilità e valutazioni diverse. Quali sono e perché è successo tutto questo? Ma possono stare insieme, secondo lei, queste due linee? Ma io ritengo sì. Ma guardi, io vengo da un'esperienza democratico-cristiana dove c'erano gli uomini di destra e Don Accattè, vi potete immaginare. Capito, ma quel tempo è finito però. Oh, esatto, perché a quel tempo c'era la politica, oggi non c'è più. Vabbè, ma io non so. Allora, il problema qual è? Che c'è una parte, quella che viene definita i falchi, che in maniera sottile facevano fughe in avanti, immaginando anche un domani la possibilità di un'intesa con il PD. Sì, e poi sono diventati, scusi un attimo, aggiungo io, poi magari lei mi correggerà, sono diventati molto anti-berlusconiani. Esatto. Dall'altra parte c'era gran parte del congresso, anzi in termini maggioritari negli interventi, una posizione di chi dice: noi FLI siamo nel centrodestra, vogliamo essere una componente del nuovo polo per l'Italia, con UDC, Rutelli, l'MPA, eccetera, eccetera, per riconfermare questa volontà. Beh, anche se Rutelli con centrodestra non è che ci azzecca molto, diciamo la verità. Chiedeva a Rutelli, non a noi, però lui dice sì. Quindi la politica si fa con le cose reali, non con... Beh, insomma, lei dice la nomina di Bocchino, il cambiamento... Esatto, improvvisamente il vertice del partito viene affittato in maniera improvvisa sulla parte dei falchi, lasciando fuori la parte più moderata, che non è anti-berlusconiana. Io sono tra quelli che dico: io non sono anti-berlusconiano, non sono berlusconiano, è un'altra cosa. Senta, Potito Salato, adesso abbiamo il traffico, poi torniamo subito con lei, però lei mi deve dire una cosa. Sì. Il problema è, oltre a quello politico che lei ha chiarito, è anche la nomina delle persone, non c'è dubbio. Sì. Allora, può essere una soluzione, lei dice, può dare un consiglio a Fini, rinunci a Bocchino come vice segretario, vicepresidente, quello che è, e può essere una svolta, può essere questa la chiave? No, se fossi nei panni di Fini, direi benissimo. Allora, siccome c'è questa contestazione, questa dialettica, allora aumentiamo la vice segreteria con due vice segreterie. Beh, lei con la soluzione democristiana. Esatto. Due vice segreterie, una a Bocchino che è il responsabile di Generazione Italia, l'altra è Urso che fa fare Futuro. Però non si risolve il problema politico qui. Comunque torniamo tra un attimo dopo il traffico. Allora, caro Parenzo, qui mi sembra che ci sia però, al di là delle cariche che possono essere aumentate, una spaccatura reale all'interno di Futuro Libertà tra i falchi e le cosette colombe. Credo che Potito Salato si possa considerare una colomba da questo punto di vista, vero Salato? Sì, ma vorrei cercare di essere più un'aquila, più che... In che senso, mi scusi? Che vede dall'alto le cose con maggiore lucidità. Senta, ma sta facendo una figuraccia Futuro Libertà in questo contesto, si può dire o no? No, sta lasciando sgomenti tutti coloro i quali si sono impegnati. Però anche una figuraccia dal punto di vista mediatico, dell'immagine, gente che si spacca. Un partito che nasce dà anche immediatamente l'impressione di divisioni così traumatiche, certamente non fa bene. Ma il problema non è... Senta, un'altra cosa però, è una cosa importante, perché abbiamo iniziato con la frase di Fini. Voglio capire se lei la condivide, perché è un'accusa molto seria. Sì. Cioè, la maggioranza cresce per i soldi del Premier. No, io non parlo di soldi. No, ma è d'accordo o no con questa frase di Fini? No, in parte sì, in parte no. Ma io non entro nel merito di queste vicende. Perché questa è una cosa importante, però. Cioè, Berlusconi compra deputati e senatori. No, ma si può comprare anche con le promesse di incarichi, di ministeri, se vogliamo usare il verbo comprare. Il problema è un altro, invece, all'interno dell'FLI, per ciò che mi riguarda, per esempio. Non è Bocchino, che stimo, che ha fatto molto, ha costruito sul territorio Generazione Italia, ma affidare il capogruppo all'amico della vedova, che io stimo e rispetto per le sue idee, dà un'impressione radicale, laica o laicista addirittura, di FLI, cosa che non è così. Beh, certo, per lei certamente non è così. No, ma mica solo per me, questo ha creato, secondo me, anche problemi all'interno del nuovo polo con l'UDC. Dunque lei chiede le dimissioni di Della Vedova da questo incarico? No, io non chiedo le dimissioni di nessuno, secondo me dovrebbero fare tutti un passo indietro, ma questo so che non è possibile. Io vorrei che venisse integrato il tutto con la presenza anche della parte moderata. Cioè tutti un passo indietro, c'è anche Bocchino, naturalmente. Tutti, e ricostruire un'unità. Ma siccome questo è difficile, allora non voglio arrivare a chiedere dimissioni dell'uno o dell'altro, ma a mettere in condizione la parte moderata di essere compresa nella gestione complessiva del partito, anche nell'interesse complessivo di FLI rispetto ai rapporti di Santa Romana Chiesa. Scusa, questo è importante, anche per i rapporti con Santa Romana Chiesa, scusi? Che certamente, secondo me, non apprezza di avere una parte politica che ha un capogruppo con una storia come quella dell'amico della Vedova, che io rispetto, per carità, certo. Però in politica vale anche ciò che appare, oltre ciò che è. Non c'è dubbio. Senta, le voglio chiedere una cosa: se questo non avvenisse, lei lascerebbe Futura Libertà? No, io... Perché? Io non lascio Futura Libertà, perché sono legato a rapporti di stima e di amicizia con Fini, con gli altri. Dico solo che secondo me va accelerato, semmai, il processo del nuovo polo per l'Italia, in modo che si possa all'interno riequilibrare politicamente una situazione che certamente non giova né allo stesso Presidente Fini, né a tutti noi, né a Future Libertà. Senta una cosa, c'è una questione interessante che riguarda, naturalmente Future Libertà, ma la questione dell'autoritarismo, cioè l'accusa che Fini ha fatto a Berlusconi di aver gestito il PDL in maniera autoritaria. Mi sembra che stia succedendo lo stesso. Purtroppo l'impressione che si ha è questa, è certamente una grossa contraddizione rispetto anche alle dichiarazioni e al discorso finale del Presidente Fini. Adesso io non so di chi sia la responsabilità o il condizionamento che ha messo in questa situazione il Presidente Gianfranco Fini. Beh, avrà deciso lui, immagino. Ma a volte in politica purtroppo non è che si riesce a decidere da soli, si è condizionati anche da chi ti è intorno. Questo è uno dei diceva Parenzo, Fini in balia di Bocchino. Ma non è in balia di Bocchino, perché allora potrebbe essere in balia della Perina, di Bonfiglio, insomma dei falchi, dei falchi. Questo secondo me è una cosa che non giova nemmeno al Presidente Fini, al quale sono legato da amicizia e riconoscenza. Nel suo stesso interesse ritengo che sia utile ritrovare l'unità di questa componente politica, facendo ogni sforzo possibile ed immaginabile. Però mi sembra che, così, sentendo anche le dichiarazioni oggi di Fini, che saranno pubblicate domani sul Secolo d'Italia, che l'aria non sia questa, soprattutto l'accusa che viene fatta a Berlusconi di comprare. Questo, io voglio tornare su questo, mi scusi se insisto, Potito Salato, perché mi sembra un'accusa molto grave. Cioè, è il timbro dell'anti-berlusconismo, cioè Futura Libertà nasce con queste parole di Fini, ma anche con tutta la linea politica dei mesi scorsi incarnata dai falchi, nasce con un timbro di anti-berlusconismo molto feroce, molto forte. Insomma, siete praticamente, dal punto di vista almeno delle dichiarazioni, eccetera, come Di Pietro. Sì, ma questo fa parte anche degli aspetti caratteriologici di ognuno, che può dire le cose con una veemenza che semmai non andrebbe usata. Lo si può pensare e non dire a volte in politica. Cioè, il principale errore di Fini in questi giorni qual è stato, in queste settimane? Qual è stato? Seguire troppo i falchi? Secondo me i falchi e irrigidirsi in una posizione che politicamente non so quanto produca. Ha prodotto errori fino adesso anche, ha prodotto errori e sconfitte dal punto di vista... Cioè non è un paradosso che Berlusconi aumenti i suoi parlamentari nel momento in cui è più debole? Ma questo è il paradosso della non politica, alla quale facevo cenno prima, per cui chi è stato il più grosso avversario di Berlusconi oggi ritorna nelle file di Berlusconi, è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Senta, ma non avete strizzato troppo l'occhio anche ai magistrati? No, non è il problema di strizzare... Guardi, io torno da un'esperienza politica nella quale... Cioè lei, la sua presenza in Futura Libertà è compatibile con quella di Granata? Questo voglio capire. Ma tutto è compatibile, bisogna vedere chi è che poi compie la mediazione finale. Però io vengo da un'esperienza dove Andreotti è stato 10 anni dai magistrati, io sono stato 14 anni da un magistrato e da una corte per essere assolto poi con formula piena. Sì. Per cui Berlusconi vada dai magistrati, io non do né giudizi né sentenze a Berlusconi, lui ha il dovere, come ogni comune cittadino e come ognuno di noi ha fatto, a rivolgersi ai magistrati e cercare di dimostrare la propria innocenza. Bene, grazie, grazie signor Salato, buona serata, presto, a presto, cose, a presto. 800 24 00 24, caro Parenzo, così inizia la zanzara, avete visto che tormenti. Mamma mia, all'interno di Futura Libertà, ma con te e con gli ascoltatori ci sentiamo dopo naturalmente le notizie del giornale radio, seguitele, seguitele. Eccoci qui, caro Parenzo, 1917 800 24 00 24, questa è la zanzara, come immagino tu sappia, no? E chi dice il contrario verrà querelato per diffamazione. Assolutamente, per esempio chi dice come Berlusconi che la zanzara è comunista, ma dico ma siamo impazziti. Berlusconi, si informi, telefoni. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua. Forse si riferisce Berlusconi al fatto che noi mandiamo ogni tanto i titoli del TG3. Bah, forse. Sarà questo, forse. Sentiamoli anche stasera, via. Vediamo anche per le guerre. Le intercettazioni, i bonifici, la procedura anomala di affidamento di rubi la notte del fermo, tutto nelle carte del GIP. La Consulta avverte il governo, è inammissibile un ricorso sul conflitto di attribuzione, la decisione spetta alla Cassazione. Nuove defezioni tra i parlamentari futuristi, Fini è la conseguenza del potere finanziario del Premier, Guzzanti passa coi responsabili. Maggioranza divisa sul 17 marzo, festa dell'Unità d'Italia, domani la decisione del governo, la Russa ospite al TG3. Cattolici divisi a metà sui festini del Premier, disagio tra i vescovi, sondaggio di Famiglia Cristiana, Berlusconi deve dimettersi. Il regime di Gheddafi risponde con violenza alle proteste di piazza, almeno 10 morti negli scontri in Bahrain, carri armati in piazza. Sarebbe in fin di vita consumato dal cancro il fondatore della Apple, emozione nel mondo, in California lo raggiunge il presidente Obama. Allora, da ieri il Partito Democratico, il centro-sinistra, è in subbuglio. In subbuglio perché Nichi Vendola, con una, come dire, no? Con una, secondo me, con una mossa anche un po' paracula, diciamo la verità, no? Una candidatura che è la mossa del cavallo, capito? Come gli scacchi, cioè due passi avanti. Cosa ha detto Vendola? Ha candidato Rosy Bindi al leader della coalizione di centro-sinistra. In realtà che cosa ha detto Nichi Vendola? Ha detto Bindi leader di una grande coalizione. Sentiamolo, va, sentiamo. Quella larga coalizione a cui apre anche Vendola per il tempo strettamente necessario alle riforme e ne suggerisce la guida. Rosy Bindi, dopodiché il centro-sinistra si mette al lavoro per fare il mestiere del centro-sinistra e il fondamento del nuovo centro-sinistra sono le primarie. Il centro-destra fa il centro-destra ed evitiamo di fare pasticci. Dunque la cosa nasce innanzitutto su un equivoco, cioè Vendola non è che ha detto leader del centro-sinistra, ha detto leader di un governo provvisorio di grande unità, anche confini, questo famoso e assolutamente ridicolo governo che per ora sembra emergenziale, lontanissimo, fantapolitica assoluta. Dopodiché si è innestata tutta una discussione sul fatto che Rosy Bindi potrebbe essere davvero una donna o comunque un personaggio politico in grado, sempre attraverso le primarie oppure no, di diventare il leader del centro-sinistra, chissà. Beh, quale centro-sinistra. Sai che il Partito Repubblica ha lanciato proprio oggi un sondaggio, no? Un sondaggio? Esatto, bravo. Puoi vedere, scusami, Parenzo, no, puoi vedere. Ce l'hai aperto davanti. Cosa c'è scritto in questo sondaggio? Beh, la domanda è molto semplice. Rosy Bindi, candidato premier dell'Alleanza Democratica, sì. Sono tre alternative, sì, no, e anche il mitico non so, che salva sempre tutti. Sì, che in questo caso non si capisce. Guardiamo bene. Guardiamo i risultati, sì. E chi accede al Partito Repubblica trova troverà il 77% sì, favorevole alla Bindi, 20% contrari, un bel non so, un 3%. Il popolo di Repubblica in corona Rosy Bindi. 58.000 persone però, dicono. Beh, insomma, un buon 58.000 voti per il sì, 15.000, 16.000 per il no e 24.000 per il Ma tu lo sai che il ministro Rotondi, il nostro carissimo ministro Rotondi, ministro, beh, insomma. Adesso, sì, ministro, sarei più tiepido, diciamo, però vabbè. Vabbè, sì. Ah, sì, un grande amico della Zanzara, eccetera, eccetera, no, ministro dell'attuazione del programma, uno può dire, insomma, ministro per modo strategico, che è un ministero assolutamente strategico, ha detto di aver litigato con Berlusconi perché secondo lui la Bindi è carina. Te lo giuro, è così. È il numero uno. E te l'ha detto oggi, l'ha detto oggi, senti. Figuriamoci se ho paura di una ragazza con cui siamo cresciuti, sia pure da un certo momento in poi, è su fronti opposti. Siamo ragazzi, no, fino a tanto in Italia, però adesso no, insomma, di una tenda adolescente. È uno dei pochi punti su cui io ho litigato con Berlusconi, perché ho sempre detto che era persino carina, quindi insomma, voglio dire. Adesso, insomma, detto con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili, militari, eccetera. No. No, non lo dico, non è vero. Vedi, de gustibus non disputando mezzo. No, ho capito, però insomma, devo dirla tutta, sì, dimmela tutta, la passionaria, sì, del PD ha un suo grande fascino invece, perché non sì, è come che passionaria, diciamo, no, come ma passionaria. Per fortuna, però vabbè, de gustibus, la donna poputa con le minigonne, i tacchi a spillo. Beh, ho capito. E qui ha un suo fascino, cioè cosa che c'è? Io sì, ma c'è delle regole anche in queste cose, lo sai bene. Delle regole, cioè, ma per fortuna non è che a tutti piacciono. No, no, perché? Modello, no, ma assolutamente no, su questo hai ragione. Di Pietro è tornato a tuonare. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che ascoltano mi dà spazio? Mai? Come non ascoltano? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione? Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Senti questa, meglio nuotare che morire. È tutta una metafora su Berlusconi. Senti, senti. Se stai in mezzo al mare e siamo io e lei mi continua a dire: non ce la facciamo arrivare io, non ce la facciamo arrivare. Nuota, ragazzo, perché tanto moriamo qua. Allora, tra stare qui a morire di Berlusconi acuta e tentare di prendere un antidoto, io ci provo. Tu l'hai capita, scusa. Beh, meravigliosa. Dimmi, l'hai capita o no? Se siamo perché noi due. Non è difficile. Beh, io non l'ho capito. Le difficoltà del mare vasto con i suoi pericoli, le energie che finiscono, piuttosto che stare qui sull'isola dove c'è Berlusconi, è meglio mettersi in moto e comunque provare a lasciare quest'isola infelice. Questa è una metafora. Vabbè. Intanto. Non ti è piaciuta, però. Ma no, ma non è che non mi è piaciuta, è che. Vabbè. C'è qualche altro di Pietro da mandare? Camicia di forza, Berlusconi, però camicia di forza per Berlusconi. Cioè, ha chiamato l'ambulanza, come facciamo noi, Ambulanza per Berlusconi, Di Pietro. Detto da Di Pietro, non mi pare molto originale. Comunque, sentiamo. Sul piano della credibilità internazionale ci renderà ridicoli, perché poi questo signore, non so se siete accorti, ultimamente comincia ad avere dei problemi veramente da chiamare il medico, insomma, da chiamare la camicia di forza, per come si comporta su certe sue affermazioni e certe sue prese di posizione. Va bene, qualche ascoltatore, poi torniamo perché abbiamo moltissimo materiale da farvi ascoltare questa sera. 800 24 00 24. Il signor Aulo ci chiama da Udine. Buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Beh, io apro soltanto dicendo che di vergognoso non trovo quello che ha detto Fini, ma quello sì, che dice lei, le affermazioni sue. Cioè, su che cosa? Su quale argomento, mi scusi? Ha aperto la trasmissione dicendo, la radiotrasmissione, vergognose le affermazioni di Fini. Sì, ma lei confermo, sì, scusi, lei abbia sono pazienza. Vergognose queste affermazioni, sono altre le cose vergognose. No, scusi, in Italia, scusi un attimo, signor, come si chiama? Aulo. Aulo. Sì, Aulo, mi scusi l'accento perché non è un nome originale. E che significa Aulo? E che cosa significa il nome? Aulo, no, è curioso, no? Beh, è curioso, sì, deriva dal greco, però sinceramente non lo sa, cioè lei non sa il significato del significato del suo nome. Beh, non lo trovo, è così, se vuole glielo diciamo. Frequente che Fra poco glielo potremmo dire noi, basta consultare internet. No, ma è così, ma uno dovrebbe sapere il significato del proprio nome. Ma al di là di questo, sto scherzando. Vabbè, non è questo non si può sapere tutto nella vita. No, però il significato del proprio nome, sì. Presuntuosi, ecco. No, d'accordo, però mi fa... Vabbè, lasciamo perdere. Non pensavo che lei lo sapesse all'istante, che ce lo dicesse. Auro significa, eccetera. Beh, uno... c'erano degli imperatori nell'antica Roma che si chiamavano... Ecco, sì, va bene, senta, poi... signor Auro, il punto è questo: io trovo vergognosa quell'affermazione, lo ribadisco, come tante altre di tanti altri politici di centrodestra, di centrosinistra, eccetera, eccetera. Forse... No, guardi, lei, dottor Cruciani, sì. Io la seguo quasi ogni sera. Ma perché lei deve fare sempre un... mi dà fastidio perché è troppo di parte. No, mi scusi, uno bisogna che lei... Berlusconi. Ma lei è completamente fuori, non è compus sui, come diceva Berlusconni, non è compus sui. Come diceva Beh, lui. Io sono uno che ascolta, posso giudicare. Ma io non sto difendendo nessuno, lei ascolta altre cose, evidentemente si mette in un'ottica, quando ascolta, di trovare il Berlusconi in Cruciani, il che è abbastanza bizzarro, è una cosa senza senso, ha capito? Cioè io qualche volta sono d'accordo con Berlusconi, altre volte non sono d'accordo. Le affermazioni di Fini sono vergognose, al di là che allora, non sono probabili ovviamente. Ma io no? per questo Però... ho detto, io solo per questo ho detto, cioè dire che chi abbandona Futuro e Libertà o altre persone vanno con Berlusconi semplicemente perché Berlusconi compra queste persone, o tu dimostri questa cosa oppure è una cosa senza senso, ha capito? Ma una non cosa mai senza senso. Però aprire la radiotrasmissione dicendo vergognoso che Berlusconi faccia certe affermazioni sui magistrati. Lo abbiamo fatto 200 volte, se non l'ho fatto. Ma guardi, se, no, allora, in se non l'ho fatto non mai sentita. Bravo, non l'ha sentito. Bravo, non l'ha sentito, oppure probabilmente sarò stato, non avrò detto vergognoso, perché Berlusconi le stesse cose le dice da 15 anni, dunque evidentemente non posso dire vergognoso a una cosa che Berlusconi ripete da 15 anni. Ho detto le solite affermazioni di Berlusconi sui magistrati che ripete da 15 anni, poi bisogna vedere quali affermazioni. Comunque abbiamo la borsa, resti con me e torniamo subito. Intanto vi do una notizia, anche a te Parenzo. Ti ricordi Roberto Rosso, lo conosci, no? Come no, che PDL, poi passato a Futuro. È tornato al PDL! No! È tornato al PDL! Ma cos'è? Ci vuole uno shuttle, navetta, sai che è una cosa pazzesca, adesso lo chiamiamo l'amico Rosso. Borsa! Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Dov'è Aulo? Aulo? Io ci sono, Aulo Gellio. Aulo, allora, caro ascoltatore, un suo sì. collega ascoltatore della Zanzara ci comunica che Aulo è un antico strumento a fiato greco, ad ancia, sì, in epoca moderna creduta erroneamente una sorta di flauto. Dunque è un antico strumento a fiato. Dunque lei bene, è uno che dovrebbe parlare. Ma allora guardi, avevo fatto delle ricerche, sì, mi risultava significasse anche l'etimologia del nome al servizio del re. Poi come ben si sa non tutti i siti sono attendibili. Come dire. Senta signor Aulo, io però non voglio sottrarmi alla sua provocazione, no? Allora, sì. Le dico subito una cosa. Se lei mi fa una domanda secca, come uomo politico, lei preferisce Gianfranco Fini o Silvio Berlusconi? Io le rispondo tranquillamente, senza problemi, non mi sottraggo, ha capito? Questo è quello che le voglio dire, non mi sottraggo. La vuole sapere la risposta? Sì, la vorrei sapere. Silvio Berlusconi. Se lei mi mette di fronte... se lei mi mette di fronte a una scelta, come uomo politico, preferisce Silvio Berlusconi o Gianfranco Fini? Io le rispondo senza nessun problema, ma questo non significa come uomo politico... Gianfranco Fini, ma non lo voto. Invece... Io invece preferisco Gianfranco Fini. Come, scusi? Io invece preferisco Gianfranco Fini. Benissimo, detto questo, non è, io non faccio professione di fede, cioè non è una non è che io, siccome tra Berlusconi e Fini preferisco Berlusconi, non è che faccio una cosa fideistica, sì. Dico no. Semplicemente, cioè non mi sottraggo alle critiche nei confronti di Berlusconi, ma non sono prevenuto, ha capito? Questo è il punto fondamentale, non sono prevenuto. No, però aprire insomma dando tutto questo risalto. Ma è la notizia del giorno, guardi i siti, scusi, guardi. Ma no, sì, la notizia ma però cosa non dice, ma la notizia non è che dice vergognose. No, quello è il mio giudizio. Quello è il mio giudizio. Ecco, è questo. Ma io forse, infatti l'ho chiamata per quello. Ma forse lei ha sbagliato. Notizia. Però scusi un attimo, lei ha sbagliato trasmissione, perché dovrebbe sapere che in questa trasmissione, oltre a dare qualche piccola notizia sulle cose che succedono durante il giorno, si danno anche dei, così ogni tanto, dei giudizi, dei pareri. Poi certo. Ci sono i vostri pareri, c'è quello di Parenzo, ci sono altri pareri. Ma mi pare che però i pareri negativi e le bacchettate tendono sempre ad arrivare a su questo lei si sbaglia, perché le assicuro, e qui Parenzo, che certamente non è ha una sensibilità diversa dalla mia, diciamo così. Ah, Parenzo è messo in seconda linea. Ma dai, quale seconda linea? Perché sta anche lei in seconda linea, come si permette? Ma sì, senza offese, ma nel senso che è lei che poi è la Scusi, io sono il direttorissimo, Parenzo è un co-conduttore, no, che spalla, spalla. Si chiama appoggio esterno. È come Scili Poti, no, per carità, no, come Scili no, perché ho detto una baggianata. No, scusami Davide, scusami. No, ma io non mi offendo di nulla, perché senti, Scili però Poti, anche lui è un'anima in fondo, no? Oggi ha detto che Berlusconi dovrebbe darsi una mossa sui consumatori, non so su che cosa, sul decreto mille proroghe. Allora, Bocchino versus... Posso dire ancora una cosa? Prego, Paolo, lei è molto simpatico. Ecco, grazie. Sono stato al convegno, alla convention di Fini domenica, sì, bravo, a Milano, sì, e le dico, ho aderito al movimento qui in Friuli, nella provincia di Udine. Sono rimasto colpito positivamente dal convegno e mi dispiace però che ci siano, tra virgolette, o anche senza le virgolette, queste rotture, ma non si è proprio parlato al convegno di alleanze con la sinistra o di alleanze con chissà chi. Quindi trovo un po' strumentali queste, diciamo, queste affermazioni da parte di quegli onorevoli, sì, no, quei senatori che sono usciti dal gruppo. No, ma lei ha ragione su questo, cioè anche oggi Fini ha ribadito, noi nella destra, eccetera, eccetera. Non si può negare che ci sono 4-5 importanti dirigenti di Futura Libertà che strizzano l'occhio alla sinistra, dicono potremmo fare un governo insieme, anche insieme al Partito Democratico, eccetera, eccetera. E sono le stesse persone che hanno avuto grande potere da Fini in questi giorni, cioè hanno avuto incarichi importanti. Tanti. È questo che le voglio dire. La verità è che loro si stanno dividendo su come affrontare questa fase difficile. Loro hanno perso la sfida del 14 dicembre, hanno messo in piedi un partito che ha dentro anime tra loro diversissime e si stanno interrogando su come battere Berlusconi. Dice, lo facciamo logorare, rimaniamo così e lui ci porterà ad elezioni, visto questa continua transumanza di deputati, o proviamo a mettere insieme una vasta coalizione. Questo è il dibattito. Fini dovrebbe spaventarsi della probabile uscita di Baldassarri, ad esempio, perché Mario Baldassarri è uno di quelle cosiddette mente pensanti sull'economia, sì, e se anche lui, come dicono in queste ore le agenzie, mi pare al velino, Baldassarri avrebbe detto sono in profonda riflessione, se dovesse andare via anche Baldassarri. No, ma il problema è che se tu metti, problema, e se tu metti, colomba, ho capito, ma se tu metti vice segretario di un partito Italo Bocchino, ma che c'entra? No, c'entra? Ma questo è importante, dai il potere a qualcuno che sicuramente ha avuto grande merito nel costruire Futura Libertà, eccetera eccetera, è l'uomo immagini, talk show, quello che ti pare, ma evidentemente è diventato più anti berlusconiano di Di Pietro. Comunque, ma, questo, vabbè, ma è questo il punto, c'è gente, ma c'è gente che non vuole fare la guerra a tutti i costi a Berlusconi, hai capito? Non c'è, all'interno di Futura Libertà è pieno di gente che non vuole fare la guerra a spada tratta, no, contro, guarda, Berlusconi ogni minuto. Lì Berlusconi non lo vogliono, però dicono se ci alleiamo con la sinistra per un governo tecnico perdiamo. Poi abbiamo finito, abbiamo voti, chiuso, certo. Vero, invece hanno, c'è gente, invece c'è gente all'interno di Futura Libertà che pur di liberarsi di Berlusconi, esatto, si alleerebbe, esatto, con chiunque. Questo è il punto. Sempre fondamentale, rimanendo nel centrodestra. Ma però, che rimane, come, se rimani nel centrodestra non è che ti puoi alleare. Un'alleanza tecnica. Ma è uguale, una volta che ti sei messo, ma se ti sei messo con, una volta anche solo per un minuto, con Vendola, con Di Pietro, eccetera, ma i tuoi elettori come si possono sentire? Il Parlamento non c'è. Vabbè, ma io dico con sé, ma che c'entra, dai, su, hai capito, con Vendola, nel senso, un governo di larghe intese per superare ma la palude una... stigia, ti piace questa, la palude stigia Berlusconi. Vabbè, vabbè, senti, fammi mandare Bocchino, sì, versus Belpietro, va, vai. Sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome, dovrebbe essere più prudente. Allora, Bocchino versus Belpietro, quando era? Ieri? Ieri. Berlusconi produce con una sua società per conto della RAI, oltre che per conto di Mediaset, e controlla la RAI da Presidente del Consiglio. Sì, ma io non, che mi scandalizzo. Ci fosse prima, io non mi scandalizzo di questo. Invece nelle procedure che hanno riguardato... Pietro, faccio finire che devo dare la pubblicità, dopo mi mandano a lei. Invece, io lo capisco. Questo non è stato rispettato. Io lo capisco. È diventata produttrice RAI. È stato educatissimo fino adesso. Belpietro è pagato da Berlusconi. Berlusconi. Tu sarai pagato tu per essere Berlusconi. No, io non sono stipendiato da Berlusconi. E querelami, ti paga Canale 5. Io non sono. Ma io voglio dire una cosa, no? Ma a parte la cosa di pagato da Berlusconi, Bocchino è l'interprete dell'anti-berlusconismo di destra di Futuro e Libertà. Allora, ma sì, ma è certo che è legittimo. Alcuni in Futuro Libertà si domandano, ma mettiamo che Berlusconi cade e c'è un altro esponente di centrodestra, magari Tremonti, e quelli del PDL o quello che resterà del PDL, non lo so, comunque esponenti che sicuramente non scompariranno dalla scena politica, Bocchino non lo salutano nemmeno più, non ci vogliono nemmeno andare a colazione, cioè, hai capito com'è il punto? Ma questo è un problema che oggi non c'è, perché fino a quando c'è Berlusconi che continua, come dire, ad avere questa capacità attrattiva, diciamola semplicemente così, senza voler, oggi Berlusconi, dopo aver vinto la battaglia del 14 dicembre, ha dimostrato giorno dopo giorno di avere una capacità magicamente attrattiva, la diciamo cosa così, sono Parenzo, i soldi? Sono i soldi? Sono i soldi? Anche tu dici che sono i soldi? Ma ho detto che ha una capacità attrattiva. E allora sentiamo Paolo da Reggio Emilia cosa ne pensa. 800 24 0024. Capacità attrattiva, magari motivi politici oppure convenienze personali. Magari o anche poltrone, quello che vuoi, ma se sta per cadere, come dicono tutti, saranno le poltrone? Non lo so. Boh, sentiamo Paolo da Reggio Emilia. Magari qualcuno non crede nel progetto di Fini, non lo so, io dico. Lo scopre adesso. Paolo, dica. Pronto? Paolo. Sono in linea? Fino a prova contraria, sì. Ok, io non la voglio giudicare Cruciani, però la farò arrabbiare lo stesso. Mi faccio arrabbiare, io le dico una cosa. Mi faccio sono arrabbiare, d'accordo con lei al 101% sul fatto che se uno non ha le prove, quando si esprime nel modo in cui si è espresso Fini, chiaramente, che sia vergognoso, o possiamo usare tutti gli epiteti che vogliamo, le do ragione. Però io nel mio piccolo le faccio questa osservazione. Io lavoro in un'azienda privata, di cui vabbè non faccio il nome per convenienza, e ho anche amici che hanno attività commerciali e ho più di una testimonianza, quindi sono fatti veri, poi lei mi può credere oppure può anche dire che sono un ciarlatano, che per ad esempio non so, nella scelta di un articolo che due o tre fornitori mi presentano e che è esattamente identico, però uno è una persona seria che viene, si presenta e alla fine mi concordiamo un prezzo. Il secondo è una persona altrettanto seria che concorda il prezzo con me, ma poi mi lascia una scatolina sulla scrivania. Il terzo è una persona altrettanto seria che mi propone lo stesso articolo, mi fa il suo prezzo e la scatolina è un pochino più grossa. Allora io le dico che il potere dei soldi. Sì, ma no, ma io non lo sto sottovalutando il potere dei soldi. No, scusi. Questa è la mia. Lei diceva ci vogliono le prove. Io le dico che. Ho capito, cioè, ma questo qua allora dovrebbe essere da 15 anni, così anche Fini è stato con Berlusconi. Guardi, anche Fini è stato 15 questa, anni con Berlusconi. Berlusconi aveva i soldi pure 15 anni fa. Ci sono tanti indici statistici. Per me c'è un indice che si chiama indice di corruttività. Se tu ti fai corrompere per qualcosa anche di poco conto, potrai un domani diventare un qualcuno, però diventerai un qualcuno finché farà comodo a qualcun altro. E quindi no, quando però lui staccherà la spina, staccherà la spina. No, e quindi il calcio mercato o il politico, la politica mercato, secondo me esiste, anche se non ho le prove. Io non avrei mai detto quello che ha detto Fini. Perché sono d'accordo con lei, Paolo. Io non sto dicendo, io sono uno molto cinico da questo punto di vista, lo so bene. La mia sensazione è quella che l'ho detto: che esiste un indice di corruttibilità che secondo me in Italia è molto più esaltato che in altri posti. Va bene, d'accordo, ma io raccolgo la sua sfida e la giro fra poco a una persona, dopo i 30 secondi classici di pubblicità a quest'ora. Giro la sua contestazione, la sua osservazione a uno dei senatori che ha da poco lasciato Fini e che evidentemente Fini accusa di essere stato comprato, perché è così, insomma, le parole non è che sono acqua, cioè, le parole sono quelle lì, quelle che ha pronunciato Fini, cioè, molto chiare. C'è Berlusconi che si compra deputati e senatori con il denaro, con il denaro, questo ha detto. 30 secondi. Eccoci qui, caro Parenzo! Pronti, siamo pronti qui a battagliare ancora fino alle 21, tantissimo tempo, la zanzara dura tanto, dura tantissimo la zanzara. Sempre troppo poco, dico io, sempre troppo poco. Troppo poco, forse sì, forse no, non lo so. Giorgio da Savona, Massimo da Lucca, c'era l'amico Paolo da Reggio Emilia che è appena intervenuto, Giovanna da Genova e Emilio da Bergamo. Ma insieme a noi c'è un senatore che era in Futura Libertà e che è tornato non so se è tornato, comunque ha abbandonato Futura Libertà per iscriversi dove? Di nuovo al PDL o al gruppo misto? Senatore Menardi, buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi è tornato? Col PDL? No, per il momento non sono ancora, non ho ancora trovato casa. Non ha, dunque, insomma, si iscrive dove? Al gruppo misto? Ho il quartiere, sono rientrato nella maggioranza. Sì. Però o mi iscrivo al gruppo misto oppure mi iscrivo al gruppo degli autonomisti, ovvero se 7-8 come pare senatori dell'ex gruppo di Futura Libertà al Senato vengono con me, potremmo dare vita al gruppo autonomo per costruire quella che era la grande ambizione di fare la terza gamba della maggioranza. No, sì, allora mi spieghi bene questa cosa, perché lei ci è abbastanza confuso il quadro. Lei lo, anche no, lei è lo... molto semplice. No, aspetti, no, molto semplice, senatore Menardi, io ho grande rispetto per lei, si figuri. Sì, cioè, sì. Non è questo il punto, è per qualsiasi cosa avviene nel mondo della politica, ho un atteggiamento molto pragmatico, non ho un atteggiamento pregiudizialmente ostile. Però che sia semplice la situazione, no, perché la gente che ascolta non capisce più nulla. Allora, la terza gamba della... Allora, lei ci sta dando però una notizia, cioè secondo lei usciranno da Futura Libertà al Senato quante altre persone oltre a lei? Non lo so. Beh, no, lei ci ha detto 5-6. 4-5-6, cioè mi dica, il senatore Saia però per adesso resta, ha detto, secondo lei uscirà? Secondo me sì. E il senatore Baldassarri? Sei coerente, sì. Sei coerente con che cosa? Con quello che le ha detto? Con i progetti per i quali noi poi abbiamo aderito a FLI e che, per quanto mi riguarda, ho ritenuto che fossero disattesi, quindi sì, certo, anche lui esce. Anche lui esce. Sai, a Baldassarri, poi un altro che potrebbe uscire, Pontone è uscito. Pontone è uscito ufficialmente? Come? È ufficiale questa cosa di Pontone? Adesso sì, non ho seguito sì, l'ultima cosa. Pontone ufficiale. Poi Viespoli. Viespoli non è ufficiale, assolutamente, ha detto che ci sarà un'altra riunione martedì. Lei ci dà appunto, ma lei mi ha chiesto chi potrebbe. Secondo me. No, poi, certo, secondo lei. Quello è che... lo vedremo quando materialmente usciranno. Usciranno. Dunque, Viespoli, un altro che potrebbe uscire, poi siamo a quota 4 più lei 5, mancano ancora 2-3 per arrivare a 7-8. Vedremo. Adesso io sugli altri non voglio. Comunque, lei questi 4 li dà quasi. Li dà, questi 4 li dà al 90, al 100%. Questa è la mia personale opinione. No, certo, certo. E per confluire, per formare un altro gruppo che si chiama Gruppo dell'Autonomia, anche questo ho letto oggi, insieme a, credo, a esponenti della Sud Tirolo, lo sbaglio? Esattamente. E dunque, arrivereste a 10, giusto? No, ma credo che la Sud Tirolo già sono abbastanza autonomi, nel senso che dovrebbero, insieme ad altri che provengono da gruppi più diversi, essere in 10 e quindi riuscire a costruire un gruppo. Sì. Allora, la signora Contini pure potrebbe aderire, no? Ma se leggo bene l'intervista che ha fatto oggi, non so più su quale... A Riformista. Sì, però... Però non è detto, naturalmente. C'è grande suo movimento. Senta, senatore Menardi, io vorrei da lei, oltre alle cose che ho detto che sono interessanti, cioè usciranno sicuramente altre 4-5 persone e nei prossimi giorni potremo aderire a un gruppo, formare un altro gruppo che si chiama Gruppo dell'Autonomia, giusto? No, il gruppo dell'autonomia insieme a Sud Tirolo Info Spartai è una possibilità concreta, nel senso che loro martedì faranno il gruppo. Ah, martedì faranno il gruppo, dunque voi potreste aderire, quelli che escono da Futura Libertà, a questo gruppo, giusto? Esatto. Oppure potremmo fare un gruppo autonomo. Sì. Che rappresenta la posizione politica originaria. Sì. Di Futura Libertà, cioè noi quando siamo nati non pensavamo di uscire dalla maggioranza, noi siamo nati per criticare il PDL, sì, Berlusconi così anche, era montato, ma certo, vabbè, sì, ma PDL, scusi, ma lei cosa ha votato il 14 dicembre? Così come era montato e se vogliamo essere il pungolo dell'azione di governo, non a caso noi ci eravamo già distinti in sede parlamentare. Sì. Votando degli emendamenti alla finanziaria, credo, del 2009. Però mi scusi. Sì, ma scusi, ma il 14 dicembre lei cosa votò? A favore o contro la sfiducia a Berlusconi? Io il 14 dicembre stavo al Senato, Senato anche per il mio contributo si astenne. Ah, voi vi siete astenuti? Ci siamo astenuti, non, peraltro al Senato non c'era la sfiducia, sì. Al Senato c'era una mozione di fiducia presentata dalla maggioranza. Che ecco, lei sa che l'astensione al Senato vale come voto contrario, quindi voglio dire, non è che c'è molta differenza. Però no? Menardi, no, cosa è una differenza politica sostanziale. Beh, mica tanto. Comunque. Come mica tanto? Mica tanto, l'astensione al Senato vale come voto contrario, non avete dato la fiducia al governo. Non avete dato la fiducia al governo, ma adesso. Ma scusi. Ma no, amico mio, poi va bene tutto, figuriamoci, va bene come? Tutto ormai. No, dico... ma non va bene tutto, ma scusi. Siccome ci sono tre possibilità di voto, vabbè. Significa che queste tre possibilità sono una diversa dall'altra, o sbaglio? No, mi scusi, però, senatore Menardi, la situazione è molto semplice. Dal 14 dicembre, quando lei non ha votato la fiducia al governo Berlusconi, questo è un fatto, non ha votato la fiducia al governo Berlusconi, cosa è successo? È successo quello che avete detto voi. Cioè, troppo potere ai falchi anti-berlusconiani, qual è il punto? Il mio giudizio è che sempre di più si è spostato il posizionamento politico del nascituro partito al di fuori intanto dalla maggioranza di governo, sì. Due, totalmente al di fuori, due, con un'alleanza possibile anche con la sinistra, addirittura con l'estrema, ci siamo all'epoca barricati, come ho definito, in un anti-berlusconismo con la bava alla bocca, tutte cose che... Però mi scusi, questa cosa era già chiara anche prima del 14 dicembre, cioè dire Bocchino... Assolutamente era... Beh, Bocchino era la persona che andava sempre in televisione a rappresentare Futura appunto, Libertà, anti-berlusconiano appunto, di ferro, appunto, peggio appunto, di Pietro. Appunto, ho capito. Vede che lei conferma quello che... No, però voi queste lamentele, queste questioni politiche, non è che le avete poste in quei mesi là... Scusi, ognuno pone la questione quando ritiene opportuno. No, certo. In un matrimonio sì. Non è che ci si divorzia il giorno in cui si va in chiesa. No, ma questo è vero, prima della pubblicità. Uno divorzia nel momento in cui lo decide... Dopo che si è sposato, no, ma questa è una... accetto la contestazione. Dopo la pubblicità, però, mi risponde a questa cosa. Lei è stato comprato da Berlusconi, come dice Fini. Come respinge questa accusa di Gianfranco Fini? Beh, questa la ritengo ingiuriosa. E se non fosse che è uno scambio di battute politiche, sarebbe da querela. Beh, no, ma come sarebbe? Perché sarebbe? Magari vuole querelare Fini sul serio. No, ma figuriamo, io sono un sostenitore della politica senza la carta da bollo, figuriamoci. Comunque la ritiene personalmente. Io non l'ho letta questa cosa ancora, sì, sì. Ma la prendo da lei. Ma se è vera è ingiuriosa. Va bene, torniamo subito dopo con lei, fra qualche istante. Resti con noi, magari la richiamiamo se non vuole rimanere al telefono. 800 24 00 24, poi gli ascoltatori. Siamo qui, 800 24 00 24. Ha detto una cosa interessante a proposito di Fini, della frase di Fini. Gliela voglio ripetere, senatore Menardi, perché forse lei ha letto le agenzie in ritardo, ha avuto altro da fare. No, non l'ho letto, ero in aereo. Giustamente. Allora, Fini che cosa ha detto? Che la maggioranza cresce per il potere finanziario del Premier. Cioè dire, sostanzialmente, io ho tradotto, ma insomma è così, tutti quanti titolano in questo modo, è il potere finanziario del Premier, quelli che escono da Futura Libertà o da altre formazioni, soprattutto perché Berlusconi ha il denaro. Ha capito? Ho capito. Ribadisco, è ingiuriosa. Io non ho mai avuto nessun padrone. Io ho smesso di fare sindaco Cuneo perché non accettavo la proposta di allearmi con i comunisti. Sono stato fuori dalla politica per anni. Sono andato in Futura Libertà perché ritenevo che non ci fosse sufficiente democrazia all'interno del PDL. A maggior ragione, figuriamoci, sono uscito martedì, sì. Anche, non solo, anche per questa ragione da Futura Libertà, perché ho trovato inaccettabile il diktat del presidente Fini nei confronti del nuovo organigramma. Cioè l'ha deciso lui in 448, certo, come certo. Come è la stessa accusa che voi avete rivolto a Berlusconi fino adesso? Certo, voglio dire, appunto, mi pare che sia uno stile che lui rinfaccia ad altri, Ma però, ripeto, io sono un po' di più concreto e questa è una polemica che francamente non mi appassiona, ecco. Beh, insomma, non è la passione, le danno delle, fini, no, fini. Ma io ho risposto, non è che possiamo discutere, ognuno deve essere responsabile delle affermazioni che fa, io le tengo ingiuriose e finisce lì. No, certo. Ingiuriose, ma lasci perdere, amico Pontone, è un dato di fatto. No, non è Pontone, per... Menardi, si è sbagliato. Pontone è l'ex amministratore del partito. Amico Menardi, lasci perdere, è ricco o no Berlusconi? Risposta. Ma che c'entra, sì, la ricchezza? Ma... No, vabbè, ho capito, ma se no discutiamo del nulla. Ma scusi, non riesco a capire perché vuol trascinare la discussione su questa vicenda. Ma perché è normale Berlusconi, che si offrono dei Berlusconi. È normale devo essere io a descrivere Berlusconi. Cioè, lei ha parlato con Berlusconi quando è uscito, insomma, in questi giorni per uscire da Futura Libertà? Ha avuto dei colloqui con Berlusconi? Guardi, io Berlusconi lo conosco, punto. Con Berlusconi ci ho parlato quando ero nel PDL. Quando ero in Futuro e Libertà, e quindi non capisco qual è. Dunque, ci ha parlato anche in queste ore, in questi giorni? No, guardi, io in queste ore ho parlato con tutti, compresi i giornalisti, parlo con molta gente. Anche con Berlusconi, non c'è niente di male parlare con Berlusconi, non è come parlare con Bernardo. Le ho detto che ho sempre parlato con lui. Non è come parlare con Provenzano, che ne dica qualcuno per me, cioè parlare con il presidente. Assolutamente, io ho sempre parlato con lui. Per cui lei... È normale che abbia offerto magari qualche posto in qualche commissione, qualche sottosegretariato? Guardi, io sono vicepresidente della commissione lavori pubblici del Senato. Bene. Dunque non le ha offerto nulla Berlusconi? Ma è una domanda legittima, Menardi, non è un'offesa, e la politica è fatta anche di questo, anche di offerte di incarichi, di ruoli direttivi nel partito, certo, sono cose, guardi, normali. Io l'ho scritto e lo sostengo, la politica è il ruolo. Certo. Non per niente... Una delle discussioni Futuro e Libertà è stato proprio sui ruoli. Certo. E io in questo senso credo di poter svolgere il ruolo che svolgo bene in Senato come vicepresidente della mia commissione. Tant'è che lo stesso PDL non ha avuto nulla da eccepire. Dunque Berlusconi non le ha offerto nulla. Assolutamente no. Assolutamente no. Senta, la cosa che volevo chiederle è un'altra, a proposito di, adesso me la sono scordata, Parenzo, mi fai scordare le cose ogni tanto. No, tu non c'entri niente, no, così ti attribuivo a te. Attribuisce prima Scilipotti, io le faccio ascoltare le cose. Senta, no, Bocchino. No, Bocchino. Tu hai la colpa dell'altro, vabbè, Bocchino. Quando uno va a fare un esame, no? Sì. E dice no, il professore è stato cattivo, ma forse studiare un po' di più, però, vabbè. No, hai ragione, però volevo chiedere a Menardi, Bocchino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, lei come lo considera Bocchino? Lo considero un uomo molto capace, un grande organizzatore, però porta la sua storia. Io ho detto in altra occasione, ritengo che un partito che sta per nascere debba essere inclusivo e debba rappresentare il più possibile la realtà nazionale tutta intera, sì, da Bolzano a Lampedusa. Sotto questo profilo, secondo me, Bocchino non aveva questo livello di sintesi. Poi troppo falco, no? E poi era una, la sua è una posizione politica. Io francamente l'ho detto in tempo non sospetto, perché non è che queste decisioni uno le prende dalla sera alla mattina. Io francamente, non è stato anche zitto il 14, quando ho sentito il suo intervento alla Camera, che nei confronti di Berlusconi era più duro di Di Pietro, sì, sono rimasto sconcertato. Infatti si è astenuto. Scusi? Ma infatti si è astenuto, ci stiamo parlando. No, quella è alla Camera, quella è alla Camera, al Senato Bocchino era alla Camera. Bocchino parlava alla Camera. Bocchino parlava alla Camera. Ma è questo, non ha inficiato il suo voto dopo, perché la deadline è il 14 dicembre, quando no, ma prima, scusa, il senatore Menardi ci ha detto che a partire dal 14 dicembre ha riflettuto su questa cosa e come dire, in queste settimane è arrivato a maturare una decisione. Ci sono state tante tappe di una riflessione dove io aspettavo anche dei segnali rispetto al ruolo che lo stesso presidente della Camera aveva nei confronti del partito. Ma cioè doveva dimettersi secondo lei, Fini? Ma io credo che uno che decide di fare un partito in una situazione del genere, sull'onda anche della grande passione politica, sì, era un'opzione che avrebbe dovuto prendere in seria considerazione. Invece i Falchi hanno sempre spiegato che questa era un'opzione da scartare. Ma lei gliel'ha detto a Fini che doveva dimettersi? Come? Gliel'ha consigliato lei a Fini che avrebbe dovuto dimettersi dalla Camera? Fini sapeva cosa io pensavo sul tema. Ma dunque gliel'ha spiegato, insomma. Benissimo. Ma Berlusconi era contento quando ci ha parlato che lei tornava con, diciamo, tornava. Berlusconi è sempre contento. Beh, okay. Sempre contento. Berlusconi ha saputo che lo rinviamo a giudizio, secondo me un po' meno, però come? Quando ha saputo, no, che... quando ha saputo che il GIP lo ha rinviato. Ma lei questa storia di Rubi non la mette in imbarazzo, no? No. Siccome è tornato a sostenere Berlusconi, questa storia di Rubi, rinvio a giudizio di Berlusconi non la mette in imbarazzo. Senatore? Sì, no, la sto ascoltando, solo che sto sono in auto, sì, e quindi sento malamente. No, Rubi, la parola Rubi le dice niente, Rubi. No, leggo anch'io i giornali. È ovvio che se non c'era era meglio, no? Se non c'era la vicenda, siccome c'è però questa vicenda, le voglio chiedere. No, le voglio chiedere, siccome lei è tornato a sostenere Berlusconi, mi sbaglio? È tornato a sostenere Berlusconi, adesso non so in che ruolo, nel senso... No, guardi che io non ho mai votato contro il governo. Beh, insomma, ha aderito a Futuro Libertà, adesso vuol dire Bernardi, senatore Bernardi. Ma io non ho mai votato contro il governo, scusi, ma... Ma astenendosi al Senato, lei ha votato contro il governo, è uguale, la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, vabbè. Scusi, se uno vota contro, è contro. È come il semaforo, lei ha presente che il semaforo però c'è mi di... rosso, giallo e verde. Rosso è un altro che è tornato col PDL, tra l'altro. No, però, lei ha ragione su questo, però... Lei ha votato arancione, che vuol dire attento, fermati che viene rosso tra un po', su, non giochiamo. No, tra l'altro... Guardi, esiste, lei che sicuramente girerà il mondo più di me, esiste no. anche il giallo che avverte, guarda che viene verde. Sì, no, però le voglio dire una... in alcuni paesi che manda i matti, no, però al Senato così? Mi suggeriscono che al Senato l'astensione è uguale al voto contrario. L'ho detto prima, certo. Senatore Bernardi, alla fine è così. Cioè, comunque, quando si è trattato di dare la fiducia a Berlusconi, lei il 14 dicembre non gliel'ha data la fiducia. Adesso, insomma, questo è il punto. Va benissimo, cioè, però che questo sia chiaro, non ci può venire a dire che io non ho mai votato contro Berlusconi. Ha aderito a Futura Libertà, che è diventato un partito anti-berlusconiano in prima fila contro Berlusconi, col presidente Fini che tuona contro Berlusconi un giorno sì e l'altro pure. E infatti me ne sono andato, scusi, ma non riesco a capire va benissimo. Dove volete arrivare. No, però lei che ci viene a dire... Continuate a spiegarmi che uno deve divorziare prima di sposarsi. No, uno si sposa. Normalmente vive con una persona, poi le cose non vanno bene e se ne va. Per rimanere in questa metafora del matrimonio, lei però lo sapeva che magari la moglie era un po' così frufru, no? O no? Cioè la moglie era un po' frufru, lo sapeva, no? Esistono anche dei matrimoni in cui uno... accetta di avere la moglie frufru. Il grande amore che porta verso una persona sopporta anche di poterla sposare sapendo... che è frufru, come dice lei. Senta Bernardi, l'ultima cosa poi la lascio alla guida è questa. A lei questa storia di Rubi, questa, vede che po', dopo un po' tira fuori anche un po' di ironia il senatore Bernardi, bisogna un po' ognuno ha il suo stile, la sua caratura. Lei è stato sindaco di Cuneo, è uno serio, mica come noi, Parenzo, cioè è ingegnere, credo, no? Cioè una cosa ma non è... vuol dire che è noioso. Ma no, ma non è uno che sa... Hai dato del noioso al senatore. No, non ho dato del noioso al senatore Menardi. Ho detto che non è uno che racconta così, sta là a chiacchierare come noi dalla mattina alla sera. Ma mica tutti sono come Berlusconi che raccontano barzellette. No, è una cosa che gli invidio molto, saper raccontare barzellette. Lei ne hai niente barzellette, no? No, l'umorismo è una cosa importante. No, certo, per carità. Lei invidio chi ha uno humor. Beh, ogni tanto lei però, devo dire, quando è stimolato, tira fuori anche lei qualcosa. Ma questa storia di Rubi non la imbarazza un po'? Ma io scusi, cosa vuole sapere? No, voglio dire, la domanda è facile, eh? La domanda è facile. Vi è imbarazzato da questa vicenda di Rubi, dato che è tornato? Le ho già spiegato che se non ci fosse stata era meglio. Ma siccome c'è pensa che giudici anche se nostro signore non fosse morto sarebbe stato meglio. La domanda è questa. Secondo lei, come dato che è tornato a sostenere Berlusconi, c'è un complotto dei magistrati contro Berlusconi? No, No, io credo che Berlusconi sia trattato con particolare attenzione dalla magistratura. E Futuro Libertà civetta troppo con i magistrati, per esempio? E Futuro Libertà? Civetta un po' troppo con i magistrati da questo punto di vista? No, fa il verso ai magistrati, troppo dalla parte dei PM che accusano Berlusconi? È uno dei motivi per cui lei ha lasciato Futuro Libertà, è anche questo? No, non è questo. No, non è questo, non c'entra niente. Va bene, senatore Menardi, io la rivedrei presto volentieri da qualche parte, in diretta, da qualche, insomma è interessante tirare fuori anche l'ironia quando una persona pensa di non averla. Benissimo. Grazie. Anche se io non amo molto fare il pagliaccio. Ma no, lo so, sto scherzando. No, siamo noi. Siamo noi i pagliacci in questo caso, non è Barbareschi. Senta una cosa, senatore Menardi, no, mi sono scordato, ma perché mi scordo le cose? È una cosa pazzesca oggi, è una cosa impressionante. Allora, hai fatto no, tardi ieri no sera, volevo dire che il senatore Menardi non è uno che parla molto, su questo non c'è dubbio, perché ultimamente in intervista non è che ne ha date tantissime. Infatti uno scoop della zanzara. Ma adesso lo scoop, non esageriamo. Insomma. Senatore Menardi, grazie, buona serata. Arrivederci, buonasera. Pubblicità. Saluti, simpatico. Eccoci, 20:15, fra poco c'è il traffico, andiamo però con gli ascoltatori. Giovanna da Genova, buonasera. Giovanna? Giovanna, non Clara. Giovanna, non Clara, Giovanna. Bene, buonasera. Buonasera, dica. Allora, io volevo dire questo, che Cruciani mi ha attaccato la crisi della memoria, perché il motivo per cui ho chiamato stasera è che qualcuno ha detto, per non scontentare Sacra Romana Chiesa. Sì, il signor Salatto ha detto ecco. La scelta di Fini su Benedetto Della Vedova come capogruppo di Futuro Libertà è una cosa che scontenta Sacra Romana Chiesa. È un'espressione esatto. Straordinaria, ho trovato. Allora, purtroppo io mi sto rendendo conto col fatto di Rubi e col fatti di non so, di chi si era voluto infangare Fini, eccetera, eccetera, che l'Italia sta diventando un paese molto perbenista. Cioè? Cioè, tutti, per esempio, ieri sera mi avete fatto proprio uscire dai ranghi, no? Su che cosa? Col discorso del professor Vattimo. Ma quanto tempo è che non fa sesso? Ma quanto paga? Vabbè, ma ha pagato? Era un discorso... Ma quanto Dio, ma sono fatti del professore? Sì, d'accordo. Come sono fatti Giovanna, miei, Giovanna, certo che sono fatti del professore. Siccome ha scritto un libro, il professor Vattimo, in cui ha parlato anche delle sue esperienze con i suoi compagni, beh, allora se uno scrive un libro, il libro per definizione è qualcosa che arriva al pubblico e dunque se ne può parlare, insomma, o no, Giovanna? E poi sì, non diciamo che i fatti privati di un politico sono anche pubblici, che ci deve essere la casa di vetro, eccetera, eccetera, che anche i comportamenti privati sono importanti, oppure no? Non lo so. Cioè, quando sì, è per Berlusconi va bene, quando è per Vattimo no. Non, cioè, perché allora adesso noi facciamo la politica sulla vita privata di Berlusconi e non vediamo quello che di negativo o di positivo Berlusconi ha fatto. Ma non, guardi Giovanna, io non l'ho votato. Noi manteniamo sempre distinte queste cose, anche Parenzo lo fa spesso, gli atti del governo, le cose che fa il governo e poi anche i comportamenti privati di Berlusconi che inevitabilmente diventano anche oggetto di discussione pubblica, al di là delle inchieste, sì, sto dicendo. Però siamo tutti perbenisti, siamo tutte persone. Ma chi è perbenista? Io non sono perbenista per niente, ma io non mi scandalizzo di nulla e non sono affatto perbenista, Giovanna. No, ma io non ce l'ho con lei, cioè voglio dire, in Italia io vedo, cioè io vivo a Genova, frequento abbastanza gente, no? Cioè tutti si scandalizzano di quello che sta facendo Berlusconi, poi magari ma tutti, non lo so, non ho un sondaggio. Il nostro vicino di casa fa la stessa cosa. Sì, Giovanna, però anche qui bisogna distinguere. Io credo che le persone si scandalizzino, almeno quelle che conosco io, chi si scandalizza per il comportamento di un presidente del consiglio, non di un privato cittadino, per i presunti reati, ma quello è un'altra cosa e voglio tenere distinti questi aspetti. Cioè il fatto che escono delle notizie sulla vita privata di Berlusconi è una cosa inevitabilmente ha riflessi sulla vita pubblica di Berlusconi, questo lo riconosce anche per esempio Giuliano Ferrara. A proposito di Ferrara, la ringrazio Giovanna, c'è un'agenzia appena uscita molto dura nei confronti di Fini, stavolta la terza carica dello Stato che scarica bombe di fiele politico sul presidente del consiglio per trattenere il proprio gregge parlamentare. parlamentare, non si era mai vista né sentita. Adesso è giusto aspettarsi con viva impazienza che il Presidente della Repubblica, in modo chiaro e verificabile, censuri Gianfranco Fini. È quanto si legge nell'editoriale di domani del Foglio. Ma noi abbiamo il traffico, torniamo subito dopo con Andrea da Roma, Pietro da Bologna, Massimo da Lucca, Giorgio da Savona. Ma abbiamo anche un altro fuoriuscito. Stasera è la giornata dedicata ai fuoriusciti da Futura Libertà. Il mitico Rosso, caro Parenzo, Rosso. Anche Rosso, che è tornato anche lui nel PDL. È tornato nel PDL. Bisogna dire che tutte queste persone sono state elette col simbolo di Berlusconi, eh? Non è che sono state elette. È vero che è un po'. Ancora con sta storia, dai, traffico, traffico. È traffico, stavolta lo lanci tu, traffico. Ma no, questa storia. Pubblicità. Eccoci qui, Andrea da Roma, buonasera, 800 24 00 24. In politica succedono tante cose, certo, operazioni anche difficilmente comprensibili, no Parenzo, al grande pubblico. Molto, operazioni molto. Se vogliamo non dico anche a noi, incomprensibili anche a noi, non solo al grande pubblico. Sì, però è successo qualcosa evidentemente, cioè la spinta propulsiva di Fini si è un po' arrestata, i falchi come Bocchino hanno impresso una hanno dato l'impressione di voler solamente abbattere Berlusconi, di diventare più anti-berlusconiani di Pietro, e evidentemente qualcuno ha detto di no. Anti-berlusconiani di Pietro volevano costruire un partito nuovo di destra alternativo a Berlusconi. Beh, sono le fondamenta di quel partito da quando ne parliamo, mi pare veramente tutto così curioso e strano. Vabbè, comunque andiamo a sentire Andrea da Roma. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Mi ascolta, mi sente? La sentiamo molto bene, caro Andrea, dica pure. Perfetto, intanto avrei ascoltato volentieri il commento di Parenzo riguardo il deputato precedente, il suo Poa, che è veramente mitico. Come Poa? Mitico, per fare un commento finale. Non ho capito, qual è il commento che ha fatto Parenzo? Non ho capito. No, le Poa di Parenzo è ma non ha fatto Poa, cioè non ha mica sputato. Non lo fa, però lo fa spesso. L'avrei ascoltato volentieri come commento finale a quello che ha detto il deputato. Non ho capito, comunque ho detto, Andrea. Ho detto non buo. Avrà detto ma. No, il suo può, quando commenta spesso le dice. Ma perché voleva sentire questo può? Perché quello che ho ascoltato poco fa, francamente, mi è sembrata una cosa vergognosa. Perché è vergognosa? Scusi, c'è il ritorno di Menardi al PDL, comunque non è tornato al PDL, comunque l'abbandono di Menardi di Futura Libertà è vergognoso. Perché è vergognoso? Non lo voglio capire. È vergognoso perché dà un'idea di quello che vuol dire impegnarsi in politica, nel senso che non si può decidere di votare contro il governo in una elezione cruciale, perché quando dice io mi sono astenuto, è chiaro, poco vuol dire astenersi, significa soltanto votare contro, e quindi votare contro e poi successivamente rientrare nei ranghi. Bah, insomma, fa un po' pensare. Beh, sono successe anche delle cose, perché poi noi abbiamo contestato a Menardi il fatto che fino a qualche mese fa ha votato sostanzialmente la sfiducia a Berlusconi, nonostante quello che lui sostenga, e che evidentemente è un'uscita un po' troppo repentina da un progetto. Ma che comunque lei un'idea non ce l'è fatta. E qual è l'idea? Che è stato comprato, Andrea, anche lui? Insomma, comprato no, comunque che abbia così come tenuto conto di quello che vuol dire finire la legislatura con tutti le comodità che ho capito comporta. Cioè la sua idea, per carità, può essere anche questo, la sua idea è che questi qua che tornano non vogliono far finire la legislatura, certo, per esempio lo sostiene chiaro, Guzzanti. La mia opinione è che non abbiano molto interesse alla vita politica, perché è chiaro che chi finisce la legislatura con Berlusconi, perché io personalmente penso che Berlusconi sia assolutamente uno fuori dalla politica oramai. Cioè, in realtà non è così, fuori dalla politica, il Presidente del Consiglio, che vuol dire? Il futuro politico di Berlusconi sia completamente finito. Che è finito, però allora quale interesse avrebbero a tornare con Berlusconi queste persone se il futuro politico di Berlusconi è finito? No, mi faccia capire, crolla tutto il suo castello. Hanno come unico obiettivo quello di raggiungere quel numero di quel periodo che gli consenta poi di arrivare alla... Ma l'hanno già superato, credo, la questione della pensione, dice lei, eccetera. Ma insomma, non credo che l'abbiano superata ancora. Cioè lei esclude che ci siano... Però scusi un attimo, Andrea, al di là della questione che il periodo superato per ottenere la pensione, io credo che sia stato superato questo periodo, perché bisognava superare, non mi ricordo, la metà, adesso non so bene quale sia stata l'ultima riforma. Ancora non ci sono, però. Però mi scusi un attimo, Andrea, lei esclude, questo è abbastanza curioso nelle telefonate, caro Parenzo, e ringrazio Andrea, cioè ci sono persone che proprio escludono l'idea che qualcuno abbia maturato una decisione politica, che si sia convinto di qualcosa. Cioè la politica viene vista sempre, questo io trovo che sia folle, cioè ci sia sempre qualcosa dietro che non ha niente a che fare con il proprio convincimento, con la, il cambio anche di un'opinione, cioè, ma ci sia dietro sempre una magagna, un interesse personale, una cosa di piccolo cabotaggio, il mutuo quando non è la pensione, appunto, il vitalizio o qualcosa di questo tipo. C'è sempre un'opzione, cioè, per esempio nel percorso di Guzzanti, perché noi lo prendiamo in giro, io conosco Paolo Guzzanti molto bene. Ora, per carità, posso trovare anche del tatticismo, qualcuno pensa addirittura che sia legato al rinnovo del suo contratto con il giornale, una cosa di questo tipo, cioè siccome ha un contratto in ballo col giornale che non so bene se sia stato già stracciato oppure debba essere rinnovato, c'è stata anche una discussione diretta da lui. Il caso di Guzzanti è ancora diverso, perché Guzzanti non è che fa marcia indietro sulla mignotocrazia. No, quello no, no. È sempre stato molto critico nei confronti dei magistrati. Sì, però sei iscritto ai responsabili. Ho capito. Questo è più che mai curioso, infatti lo ci confronteremo, immagino, nelle prossime puntate con lui che va con Giripoppi, una cosa veramente clamorosa. Roberto Rosso, buonasera. Buonasera. Come sta? Che giornata. Come è tornato nel PDL? Che è successo? Quanto rimane al PDL? Sono venute meno le ragioni di carattere locale. Di carattere locale. Di carattere piemontese, eravamo sempre in vega, io e il coordinatore regionale Enzo Ghigo. Oggi abbiamo trovato finalmente, su spinta di Denis Verdini e del presidente Berlusconi, un accordo per convivere più amorevolmente in Piemonte. Abbiamo costituito una direzione regionale paritaria di 10 persone che coordinerà il partito, e quindi molte delle ragioni per cui era venuto meno il mio accordo col PDL oggi mi hanno consentito di rientrarci dentro. Cioè, mi scusi un attimo, adesso io traduco per gli ascoltatori. Onorevole Rosso, lei non è che era uscito dal PDL per andare in Futuro Libertà solamente per queste ragioni locali, anche per altre ragioni, perché altrimenti... Io non avevo mai avuto, si ricorda che mi avevate anche intervistato sulla vicenda di Berlusconi quando avevo votato le autorizzazioni sì. È evidente che io con Berlusconi non ho mai avuto niente, l'ho sempre considerato un gigante della politica, anche quando avevo preso una strada divergente in Futuro Libertà. Futuro Libertà lo considerava invece il male assoluto quasi. Chi considerava il male assoluto? No, il Futuro Libertà invece, in particolare alcuni dirigenti di Futuro Libertà, nonché lo stesso Fini, partito cui lei ha aderito, è rimasto per qualche settimana. Ma questo è il problema, che io sono entrato in Futuro Libertà per una ragione molto specifica, perché Fini aveva detto, e la cosa mi ha convinto e mi convinceva allora, che si potesse ricostruire una forza liberale che facesse le riforme che il PDL non aveva fatto. E invece questo in Futuro Libertà lei si è accorto in qualche settimana che è impossibile? No, è successa una cosa, che Futuro Libertà nel proseguo dei mesi è sempre di più diventata una forza anti-berlusconiana, ma per questo basta già Di Pietro, non c'è bisogno di fare un altro partito. Però mi scusi la contestazione, poi c'è la borsa e torniamo subito con lei, Rosso. Insomma, che fosse una forza nata sull'anti-berlusconismo, ora lei è uno che di politica ne sa qualcosa, cioè io la seguo da tanto tempo, anche la politica, dico, insomma, non è che l'ha scoperto adesso in queste settimane, cioè lei dice... No, fine per nascere su un'altra base. Lei ha votato la sfiducia a Berlusconi il 14 dicembre? Votare la sfiducia, cioè. Ha votato la sfiducia a Berlusconi, ma lei adesso torna al PDL. Voglio dire, cioè, per carità, poi che cosa è successo dal 14 dicembre quando lei ha votato la sfiducia? L'avevo già preannunciato 3 settimane fa, se si ricorda. Io sinceramente non me la sarei sentita di continuare ad attivarmi nelle prossime settimane con voti a raffica contro Berlusconi, dal conflitto d'attribuzione che emergerà tra 2 settimane a tutte le altre emergenze che verranno in Parlamento nei prossimi giorni. Ho chiesto a Fini se fosse stato possibile attenerci tutti a un atteggiamento di astensione nei confronti di queste vicende berlusconiane. D'altronde, avevamo governato 16 anni con lui, io personalmente sono cresciuto alla sua scuola politica e quindi non vedevo l'esigenza da parte di una forza di centrodestra, quale Futuro Libertà continuava a proclamarsi, di confermare sull'anti-berlusconismo le ragioni della esistenza. Cioè, lei sta dicendo, che le ragioni dell'esistenza di Futuro Libertà dovevano e dovrebbero ancora essere, per coloro che continueranno a rimanere, quella di una forza più liberale del PDL, che stimola il PDL a fare ciò che il PDL da solo. E questo è chiaro, però Rosso, onorevole Rosso, la cosa è molto semplice. Lei ha parlato con Fini e ha chiesto sulle vicende giudiziarie di Berlusconi, possiamo avere un atteggiamento più morbido, astenerci? Fini le ha detto di no, è così? detto che non ero autorizzato sostanzialmente a votare contro le indicazioni del gruppo. E io ho detto che non me la sentivo allora, infatti non votai, ma non me la sarei sentita neppure in futuro di tenere un atteggiamento così anti-berlusconiano. Molto chiaro, torniamo tra un attimo dopo le notizie dalla borsa. 800 24 00 24. La cosa è abbastanza significativa perché Rosso dice: in un colloquio con Fini ho posto una questione, posso votare sulle questioni giudiziarie in maniera diversa magari delle indicazioni? No, Fini ha risposto, le indicazioni saranno di votare evidentemente, diciamo, contro Berlusconi, questo è il mio riassunto. E Rosso a un certo punto ha detto: no, io esco e torno col PDL. Eccoci, caro Parenzo, 20 e 36, 800 24 00 24. Vuoi fare una domanda all'onorevole Rosso che è ancora con noi? Ma sì, l'onorevole Rosso, indubbiamente la contraddizione c'è tutta, perché dopo quel voto di sfiducia a Berlusconi, io capisco che qualcosa per lui sia cambiato, ma la questione giudiziaria si conosceva il 14 di dicembre. Quindi cosa cioè, era inevitabile che la questione giudiziaria sarebbe diventata il muro contro muro. Parenzo, allora il 14 dicembre non si conoscevano le questioni giudiziarie che sono sopravvenute, poi come lei si ricorda gennaio. Non si conosceva soprattutto il fatto che, ammesso pure la divergenza politica che è arrivata fino alla sfiducia sul piano politico, si potesse da parte del partito di cui io facevo parte, Futuro Libertà, diventare un movimento così nettamente anti-berlusconiano da votare decisamente i provvedimenti giudiziari contro una persona con cui abbiamo costruito un'alleanza durata 16 anni. Ora, tutto può essere concepito e ammesso, però francamente lei mi dica se è possibile costruire un'alleanza per 16 anni sul presupposto che quella persona è un perseguitato giudiziario e poi dire che invece avevano ragione i giudici a considerarlo un delinquente. Beh, devo dire che però questa posizione messa così era già chiara prima, Rosso. Assolutamente. Non è vero. Non beh, è vero, insomma, perché... già prima del 14. Il caso Rubi si conosce il 14 di dicembre? Come? Il caso Rubi, non con il rinvio a giudizio che chiaramente è arrivato in questi giorni. Il rinvio a giudizio ma il è arrivato caso a gennaio. Rubi. Esatto. Cioè, scusi, il caso Rubi era già conosciuto, lei si ricorda, perché Liberati aveva detto in un primo momento che sulla vicenda Rubi sì, non c'era. Però, scusi Rosso, le posizioni di Fini sui magistrati e su Berlusconi da questo punto di vista erano cambiate già prima del 14 dicembre, cioè non è che fossero posizioni che lei non conosceva il 14 dicembre, cioè, ma non è possibile. È entrato... Voi potete pensarla come volete, però no, ma io la penso. Io sono convinto che lei ha fatto un accordo politico a livello locale con il PDL che a lei vuol dire che dà a lei un certo potere in Piemonte, tutte cose legittime. Non dà nessun potere, è stato costruito accanto alle persone del coordinatore, del vice coordinatore, anche una direzione regionale che può coordinare le attività del partito su Piemonte. No, ho capito questo cosa significa, Rosso. Che lei... democraticità interna che servirà anche alla mia persona, questo sì. Appunto, no, ma non è, la politica si fa anche in questo modo, cioè, non è mica un sì, delitto. Ma non è che sono cambiati gli equilibri di potere o altre cose di questo tipo. Beh, ha detto che servirà anche alla sua persona, l'ha detto lei, in questo momento sì, servirà. Certo, anche. È certo che se si può codecidere anziché subire le decisioni altrui. E appunto, è quello che sto dicendo. Scusi una cosa, oggi Fini ha detto che la maggioranza cresce, cioè ottiene deputati in più per il potere finanziario del Premier. Lei si sente comprato da Berlusconi? Perché questa no, è la cosa. No, questo no. Come risponde a Fini? Come vuole rispondere? Ma no. Sicuramente non credo che ci sia potere finanziario di mezzo. Quando me ne sono andato da Berlusconi era più potente di oggi, anzi oggi se vogliamo è in difficoltà sotto molti fronti, compreso particolarmente quello giudiziario, quindi da questo punto di vista che non ci sia veramente. Però è un'accusa pesante questa qua, eh? Quale? Questa qua di Fini che ha fatto oggi. Cioè, che le sembra adesso, sinceramente, poi Parenzo mi conosce anche, che è una persona normale, che fa il deputato, che è ben pagato, da far che cosa? Vendersi a Berlusconi per aderire a un progetto politico, pertanto così ho chiesto posti da qualche parte, avrei chiesto anche una monetizzazione politica, che è quello che aspira. Beh, in parte lei mi ha detto che l'ha ottenuta a livello locale. Monetizzazione politica è un'espansione della democrazia, che credo è una cosa importante, però non è un riconoscimento di ruolo come può essere un posto al governo, presidente di commissione in un gruppo, no? È un'altra cosa. Beh, comunque l'accusa è pesante, cioè secondo Fini voi siete stati comprati a suon di denaro. No, questo ha detto. Sarebbe querelabile e siccome il presidente Fini è una persona molto attenta. Beh, Menardi, il senatore Menardi pare che ha detto potrei querelarlo, poi non me ne importa niente perché sono questioni politiche, eccetera, eccetera. Però ha detto così, potrei querelarlo. Cioè, è evidente che ognuno di noi credo non abbia sinceramente bisogno dei soldi per lo scalo. Per lo scalo ne ha moltissime, può evidentemente fare tante cose nobili con i suoi soldi, ma non credo quella di comprare dei deputati o dei senatori. Però è vero, non che penso sia questa la motivazione che può spingere alcuni di noi nelle loro determinazioni. Beh, lo dica Fini, però, perché è lui che ha detto questa cosa. D'accordo, glielo dirò anche personalmente. Ma oltre a lei, chi se ne va? Non lo so, sinceramente. Io ero uscito dal PDL per questi contrasti in sede locale che mi avevano caratterizzato per anni con l'allora presidente della regione Ghigo. Sono venuti meno e come tale ho ritenuto di riaderire. Però sinceramente se altri hanno altre motivazioni per aderirvi non lo so. Va bene, Parenzo. No, onestamente conosco Rosso da tanto tempo, appunto, quindi posso confermarlo. È indubbiamente curioso che uno aderisca a Futuro e Libertà per questioni locali che sono importanti e poi si ritrovi di nuovo per questioni altrettanto locali del PDL. Va benissimo tutto ormai. No, che ci potesse essere, l'avevo detto anche la scorsa trasmissione, la possibilità attraverso Futuro e Libertà di emendare in senso liberale il PDL per quella parte liberale che il PDL non aveva rispettato. Beh, ma questa qua è una cosa da costruire. Cosa è successo? Mi perdoni, cosa è successo? All'ultimo congresso, quello di domenica a Milano, con un bellissimo intervento parlato dal presidente Fini, però la maggioranza degli interventi richiamava sostanzialmente un'esperienza che era quella del vecchio MIS. Cioè sembrava di essere tornati in una piccola enclave di destra ghettizzata dagli altri componenti del centrodestra e senza un'aspirazione politica a cambiare la politica. Ma lei l'ha scoperta adesso, Rosso, che c'è anche questa componente molto forte? Quando io derivo, l'aspirazione a cui puntò a Fini, che aveva dichiarato pubblicamente, era quella di fare la terza gamba del Polo della Libertà, sostanzialmente un partito conservatore del PDL, un partito populista la Lega e un partito liberale del Futuro Libertà. Fini ha voluto, e noi l'abbiamo anche seguito in questa direzione, ha voluto invece forzare la mano contro Berlusconi, gli ha fatto votare la sfiducia, ha tolto la compagine al governo e fino a lì l'abbiamo seguito. Quando però, perché si pensava, va bene, faremo col terzo polo una componente liberale che si unisce ai democristiani di Fini e costruisce un percorso nuovo, anche se minoritario, per la società italiana. Quando poi tutto fuori che nel congresso di domenica la prospettiva per questa nostra collocazione non era quella di una forza liberale, ma era di una forza di destra un po' revanchista che non aveva, a mio giudizio, alcun fascino per la società italiana. Era chiaro che anche le fantasie politiche si raffreddano. Va bene, ho capito. Anche timori di accordi con la sinistra? No, non era tanto questo, devo dire sincero, anzi io sono onesto, una forza liberale può avere anche esponenti che vengano dalla sinistra, dall'interno. No. Io ad esempio ho consigliato a Fini, di mettere come presidente dell'assemblea del congressuale un grande liberale che pur viene da un'esperienza comunista del passato come Cacciari. Per cui io non avrei visto per nulla male l'integrazione di forze di sinistra e di destra. No, liberale. Dico accordi politici, non di persone che potevano entrare dentro Futuro e Libertà. Si è prospettata la possibilità di accordi anche con... No, la mia preoccupazione è stata l'opposto. Mi sembrava di sentire un congresso del MIS. Io non ho visto accenni, devo dire che contrariamente a quanto hanno anche riportato i giornali, non ci sono stati accenni ad accordi con la sinistra che potesse tormentare la coscienza di chi era col congresso. L'opposto è stato quello che addirittura ci sono stati interventi, io capisco, anche un po' patetici, ma in cui la gente si chiamava Camerati. Questo per uno che viene dall'esperienza liberale cattolica preoccupa un pochettino. Per cui non era una preoccupazione delle alleanze a sinistra che questo movimento poteva fare, ma del suo rinchiudersi in una nicchia di centrodestra che era contraria alla logica. Va bene, grazie Rosso, buona serata. Grazie a voi. Allora, 20:44, Massimo da Lucca, buonasera. Dica. Ascolti, io volevo la trasmissione in qualche maniera ha risposto già a una domanda che volevo farle, perché all'inizio della trasmissione sembrava quasi che lei volesse far credere agli italiani che queste persone si sono fulminate sulla via di Damasco e hanno cambiato idea, diciamo, improvvisamente. Ora, è vero che abbiamo in questi tempi assistito a dei cambiamenti incredibili, soprattutto nel centrodestra. Fini stesso non sta facendo una bella figura e poteva rendersene conto che Berlusconi è in una certa maniera un po' di tempo fa. Allora? Niente, volevo dire, io non mi avvio più di nulla, ma lei è veramente convinto, diciamo, che queste persone tutte, anche se non diciamo, sicuramente qualcuno avrà fatto una riflessione politica, che tutte queste persone che hanno cambiato idea lo abbiano fatto semplicemente così, perché mi è venuto in mente che hanno sbagliato. No, guardi, non sono convinto di questo, però io sto ai fatti, a quello che sappiamo. Per esempio, l'onorevole Rosso, che abbiamo appena avuto al microfono, ha detto molto candidamente, in maniera molto, se vogliamo, trasparente, poi ognuno farà le sue valutazioni, che lui è tornato perché gli hanno dato più potere a livello locale. L'ho detto proprio esplicitamente, cioè mi hanno dato più potere Verdini eccetera a livello locale, cioè la condivisione del potere locale insieme a Ghigo. Questo significa comprarsi qualcuno? Può darsi, non lo so, non credo. Detto questo, per esempio c'è una persona che già ha una motivazione diversa da quella di, per esempio, del senatore Menardi, insomma, e così via. Traffico, torniamo tra un secondo per l'ultima parte della Zanzara, caro Parenzo, con gli ascoltatori. Attilio da Monza, oggi abbiamo avuto un sacco di ospiti, Vittorio da Milano, Massimo da Lucca, Attilio da Monza, Maria Grazia da Padova e altri ancora, tra poco. Eccoci qui, l'ultima parte dello Zanzara Party di questa sera, caro Parenzo, siamo un po' stanchi, no, per questo viaggio? No, beh, stanchi, ma contenti di aver incontrato deputati europei. Stanchi poi sono altri, dici tu, no? Non è che... Beh, sì, direi. Gli operai di Pomigliano, magari, no? No, oddio, anche noi ci stanchiamo, perché vuol dire comunque perché preparare le cose, leggere, studiare, un minimo di stanchezza anche noi, però... No. Vabbè, volevo mandare qualcos'altro. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Padova, pronto! No, Maria Grazia, sì, Maria Grazia da Padova, giustamente. Maria Grazia. Eccomi qua. Prego, dica pure. Sono in linea? Sì. Sì, allora, niente, io ho sentito stasera la trasmissione, mi sembra di aver capito che tanti ascoltatori come me sono rimasti un po'... sconcertati. A sentire sì. Sia Rosso sia quello precedente Menardi, sì, sì. Cioè il fatto che ciascuno poi dia anche delle motivazioni diverse, compreso uno l'antiberlusconismo che gli ha dato fastidio, e questo qui invece è una cosa, un potere locale che non aveva e che invece adesso ha, dimostra che le motivazioni possono essere tante. Un discorso però che comunque dà una sensazione proprio di sconcerto, è questo, cioè queste persone rientrano nella maggioranza nel momento in cui il premier il 6 di aprile deve essere giudicato per direttissima, perché non ha, secondo prove schiaccianti, non ha rispettato la legge. Che senso di politico danno queste persone? Cioè io ho veramente la sensazione di una... Beh, Maria Grazia, evidentemente fanno ragionamenti che non sono esattamente i suoi, cioè non pensano che Berlusconi sia un criminale, un concussore, un che ne so, uno un come si dice, Parenzo, uno che ha che ha fatto delle cose un po' sconce con una ragazza minorenne, prostituzione minorile, quello che vuole. Insomma, Maria Grazia, non sono nella testa di queste persone. Che non hanno, che sono state prese in considerazione, ma che forse non sono fondate. Insomma. No, non sono scandalizzati per la situazione giudiziaria del Premier sulla vicenda Ruby, evidentemente, altrimenti non tornerebbero, diciamo, con Berlusconi. Gli italiani, anche quelli che hanno telefonato da voi stasera, sono scandalizzati da questo comportamento che davvero non dà il senso politico di queste persone. Quale comportamento? Di questi, cioè, non il comportamento so, di questi che deputati. Lei ha cercato di tallonare chiedendo perché prima erano entrati nel tri e poi a un certo punto se ne sono usciti in questo modo. Voglio sempre sottolineare, signora Maria Grazia, che queste persone, stiamo parlando di persone non come Scilipoti eccetera eccetera, persone che sono state elette in Parlamento con Berlusconi, cioè non è che tornano, non è che cambiano bandiera. Hanno... insomma direi che invece la cambiano. No, certo, l'hanno cambiata aderendo a un partito secondo me profondamente anti-berlusconiano. Infatti non si capisce perché hanno aderito a questo partito. E la deadline è il 14 di dicembre, scusa se ci ripetiamo, ma la deadline, la Caporetto, il Rubicone di queste persone, il Rubicone, chiedo scusa, sì, per il gioco di parole, l'abbiamo capito, sì. Il Rubicone è stato il 14 di dicembre quando proposero la mozione di sfiducia e votarono la mozione di sfiducia. Certo, certo. Evidentemente hanno fatto una scelta di campo. Sì, lì pensavano che Berlusconi fosse finito, in realtà dopo si sono accorti, esatto, che ancora qualcosa da spendere. Che vive e lotta insieme a loro. Allora, leone, voglio fare sentire Bocchino versus Belpietro, dicci quanto ti paga Berlusconi e ti chiedo scusa, via. Tu dici delle sciocchezze, così come quando mi hai denunciato dicendo che io ti avrei procurato, fatto dello stalking perché mi occupo di te. Questo lo dici, e dici che non dormi più. No, un mese fa ti sei fatto fotografare così, lo possiamo far vedere come ti sei fatto fotografare? Lo possiamo far vedere come ti sei fatto fotografare un mese fa? Tu che non dormi la notte per i problemi. Cosa c'è? Scusi, non ho capito. Allora, no, col culatello, cosa c'è? Belpietro, ci spieghi cosa c'è di male? Con no, cosa c'è di male? No, siccome no. L'argomentazione per cui non dormirebbe più Bocchino, non può più, addirittura non lo ricevono più gli amici. Beh, questo è eccezionale. Sapete che Bocchino ha denunciato, secondo me, una cosa allucinante, il giornale Il Libro per stalking, perché lui e la moglie praticamente non dormirebbero più, avrebbero delle crisi, non so che cosa, per gli articoli scritti da Libro e dal giornale contro di loro, contro la sua famiglia, eccetera, eccetera. Forse era una battuta, perché lo stalking... No, lo ha denunciato per davvero, hai sentito? Lo ha denunciato per davvero, hai sentito? Lo deciderà il tribunale. Sì, dice... la molestia... Eh sì, io non lo so, Bocchino sembra andare avanti sul serio su questa vicenda. Allora, Belpietro gli ha mostrato una fotografia, noi non ce l'avamo in Italia, in cui lui e la moglie sono a una festa, non so dove, che mangiano il culatello, eccetera. E allora lui dice, meno male che siete stressati per i nostri articoli. Conclusione del battibecco. C'è un magistrato che deciderà. Benissimo, aspettiamo che i magistrati facciano il loro lavoro. Pietro è pagato da Berlusconi ed è agli atti. Bene, scusa, devo dare la pubblicità. Posso fare una domanda e chiudiamo? Ti abbraccio, se mi rispondi ti chiedo scusa. Ci dici quanto ti dà all'anno Berlusconi per Canale 5? Quanto ti danno invece la presidenza del Consiglio e quanto prendi, quanto hai preso per esempio dalla Telecom Serbia? A me nulla, guarda, a me nulla. Pubblicità. Beh, la tangente di Telecom Serbia è un'accusa un po' pesante. Va bene, 800 24 00 24, ma abbiamo chiuso purtroppo, come senti dalla musica, dunque il numero di telefono serve a nulla. Giuseppe da Roma, Renato da Verona, Tiro da Monza, li rimandiamo a domani 18:30. Ciao. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.